America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 dal New Hampshire. Mario Platero, sono a Concord, la capitale di questo stato. Oggi si vota per le primarie, il secondo voto per la scelta del candidato repubblicano che dovrà scontrarsi con Barack Obama. Mitt Romney è in testa, come sapete dalle cronache. Seguono a stretto margine Ron Paul, numero 2, John Huntsman e poi gli altri fino a Rick Santorum, Per Gingrich, eccetera. Ecco, il tema dominante, devo dire, che ho visto ieri, soprattutto durante la campagna elettorale, riguarda l'economia e riguarda un aspetto molto particolare dell'economia, e cioè il fatto che il debito americano abbia raggiunto il PIL americano, cioè il debito è il 100% del prodotto interno lordo americano, una questione di proporzioni europee. E naturalmente i candidati repubblicani, un po' tutti, ne hanno approfittato per attaccare Barack Obama. Si è anche verificato però un altro aspetto, e cioè, sempre sul fronte economico, un attacco al candidato di testa Mitt Romney. Su che cosa? Beh, sul fatto che, secondo Barack Obama, che lo aveva già attaccato giorni fa, ma anche secondo i suoi compagni di partito, rappresenta il simbolo dell'avidità del mondo degli affari. Perché? Beh, perché Romney è stato un corporate trader, ha comprato delle società, le ha vendute, le ha ristrutturate e, secondo i suoi concorrenti, ha licenziato una gran quantità di persone. Dunque rappresenta quel simbolo della finanza che negli anni 2000 ha accumulato grande ricchezza a spese della classe media americana, a spese dei lavoratori americani. Ecco, questi attacchi sono stati piuttosto duri, piuttosto violenti nei confronti di Mitt Romney, che infatti è sceso nel suo vantaggio dal 43% della settimana scorsa al 33% di oggi. Ma Mitt Romney dovrebbe aggiudicarsi le elezioni di oggi, dovrebbe poi vincere addirittura quelle della Carolina del Sud, sarebbe il primo candidato nella storia di queste elezioni americane che vince tre stati di fila subito all'inizio. Ecco, ieri sono stato a Salem e ho incontrato Rick Santorum. Sentite cosa mi dice proprio sulla questione del debito. As I said, you know, if we were in Europe, they'd be putting us on an austerity program, and we have a president who's sleepwalking through this very difficult situation, and we need bold leadership to deal with these problems, just like they're dealing with them, trying to deal with them responsibly in Europe. Thank you. Avete sentito la dichiarazione di Santorum? Dice che il debito ovviamente è insostenibile, ma fa un'osservazione, dice che questo debito c'è perché lo ha voluto Barack Obama, e sotto la sua presidenza che questo debito è cresciuto. Barack Obama ha trasformato gli Stati Uniti in un paese europeo proprio per questa accumulazione di debito e per aver istituito l'idea dello Stato assistenziale. Noi, dice Santorum, con cui poi ho continuato a chiacchierare, dobbiamo assolutamente cambiare questa situazione, dobbiamo cambiare l'inquilino della Casa Bianca, perché nei prossimi 4 anni Barack Obama altrimenti continuerà a fare quello che ha fatto nei 4 anni passati, cioè crescere a dismisura la dimensione dello Stato a danno delle piccole medie imprese. Ma il tema del debito in qualche modo è intervenuto anche in un'altra notizia che è giunta invece sempre ieri dalla Casa Bianca. Sentiamo Barack Obama. So today I'm pleased to announce that Jack Lew has agreed to serve as my next chief of staff. Barack Obama ha detto di aver accettato le dimissioni del suo capo di gabinetto, il sottosegretario, l'equivalente del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bill Daley, ex sindaco di Chicago, un uomo d'affari, insomma un uomo che avrebbe dovuto aiutarlo a rimettere ordine nelle cose economiche, e lo ha sostituito con Jack Lew, il quale è proprio, guarda caso, il direttore del bilancio. Perché? Beh, perché Barack Obama sente molto questo problema del debito pubblico, del disavanzo pubblico, che è addirittura del 10% sul PIL, e vuole giocare d'anticipo, sa che i repubblicani lo attaccheranno. E dunque in qualche modo ha già riorganizzato la sua squadra. Jack Lew è molto apprezzato dai repubblicani, di fatto sta mandando un messaggio importante al presidente e dirà: beh, dopo le elezioni la prima cosa che farò sarà quella di risolvere un problema che Jack Lew avrebbe potuto risolvere nell'agosto scorso e invece non c'è riuscito per le differenze politiche per questa elezione imminente. La mia giornata con i candidati è comunque cominciata a Manchester con Ron Paul, che arriva in un caffettiere, in un diner, per un breakfast presto al mattino, incontra dei ragazzi. Ecco la loro storia. Sono dei ragazzi, pensate, della Franklin High School, una scuola superiore del Massachusetts. Il loro insegnante ha deciso di portarli qui in questa giornata e di farli incontrare tutti i candidati. Ecco, ho intervistato alcuni di loro, sono un centinaio, e questi ragazzi tra l'altro voteranno tutti a novembre. Ecco il mio incontro, a cominciare da quello con Sara. So why are you guys here? Our AP Gov class came to meet all the Republican candidates. Ecco, Sara dice di essere venuta perché si è iscritta a questo corso di politica, perché è molto interessata alla politica, perché voterà appunto per la prima volta nella sua vita e dunque voleva vedere i candidati. Who do you prefer among the Republican candidates and why? I like Ron Paul a lot because of his libertarian stances. I like how he doesn't like the large government and he wants to give more choices to the people and to the states. Don dice di essere più vicino ai repubblicani e di amare molto Ron Paul, perché Ron Paul dice è libertario e io trovo che il governo stia in qualche modo asfissiando le piccole città, lui abita in una piccola città, stia asfissiando le piccole imprese. I'm Teresa and we're going to see Rick Santorum and Newt Gingrich and Romney, Mitt Romney later. Teresa, ecco, Teresa ci fa la lista dei candidati che hanno visto poi i ragazzi, e subito dopo Ron Paul hanno visto Rick Santorum e poi Gingrich e poi Mitt Romney, quindi pensate, hanno visto i quattro candidati presidenziali in una sola giornata. Sono maturi questi ragazzi, questi diciottenni americani, per votare già queste presidenziali? Beh, devo dire di sì, mi hanno colpito molto, anche perché quando poi ho parlato con loro del loro futuro, mi hanno detto che già hanno fatto le iscrizioni per l'università, per andare all'università l'anno prossimo. Non hanno ancora compiuto 18 anni, eppure ciascuno di loro sa già esattamente che cosa andrà a fare. I'm hoping to go into pre-med and study sports medicine and orthopedics, so. Sara vuol fare il medico sportivo. I want to go into neuroscience. Teresa vuol fare la neuroscienziata. I want to be an otolaryngologist, which is an ear, nose and throat doctor, so I'm hoping to go into pre-med. Alex vuol fare l'otorinolaringoiatra. Beh, l'America sarà in crisi, lo dico sempre che è in difficoltà, ma dico anche che è pur sempre la nuova frontiera. Ecco, non so quanti ragazzi diciottenni italiani oggi avrebbero le stesse idee chiare, soprattutto quanti di loro potrebbero incontrare, così come hanno fatto questi ragazzi, i candidati presidenziali. I'm here today with my wife Karen, who's right over there. That's Karen, who's my wife of 21 years, and with us there are a couple of our kids, our oldest daughter Elizabeth and number three child, number two son Daniel, so welcome them too, thank you. Rick Santorum, di cui vi ho fatto sentire la piccola chiacchierata che ho fatto con lui all'inizio della trasmissione, l'ho visto a Salem, qui sentite, introduce sua moglie Karin, poi fa un dialogo con il pubblico, è il tipico town hall meeting, e poi appena questo town hall meeting è finito mi è capitata così un'esperienza piuttosto interessante, e mi è capitato di stare insieme al senatore, insieme a sua moglie, mentre nel post evento avevano un piccolo momento di intimità. Former First Lady here. Oh, well, bless your heart. New Jersey to see you. Well, thank you. I saw you out there in the audience the last couple of debates. Good to see you. So good to meet you. Thank you so much. Thank you so much. E prima di partire, chi ho ritrovato qui con Santorum? Beh, proprio Sara, una delle ragazze che avevo intervistato prima. Sentiamola. I don't agree with his view on gay rights. I do think that everybody has the equal right to be with who they want to be with, and marriage shouldn't necessarily just be between a man and a woman, but that's my more liberal views. But I did like how he's fighting for the smaller towns in America, and I thought that was a good point, that the economy could really go back up from that. Beh, mi dice che Santorum le piace, però è preoccupata da due cose. Non è felice della sua posizione sui diritti dei gay, soprattutto sul diritto al matrimonio per gay, e non è felice della posizione di Santorum secondo cui la Costituzione non prevede una separazione fra Stato e Chiesa. Come vi dicevo, oggi il voto, la campagna è finita, qui comincia ad arrivare il freddo, fino a ieri la giornata era più tiepida. Questa notte vi daremo i risultati in diretta su america24.com. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Fiocco rosa per Jay-Z e Beyoncé, sabato a New York è nata una bambina, Blue Ivy Cut, questo è il nome scelto per la prima figlia di questa coppia. Il rapper ha deciso di celebrare l'evento con una canzone che ha scritto per l'occasione, di Jay-Z, Glory. False alarms and false starts, all made better by the sound of your heart, yeah. All the pain of the last time. I prayed so hard it was the last time. Your mama said that you danced for her. Did you wiggle your hands for her? Glory, glory, glory. Sorry. Da Concord, New Hampshire, è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.